che leggeva ad alta voce il giornale. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Ai tre allegri barcaioli, un gruppo raccolto attorno al fuoco ascoltava il signor Wopsle che leggeva ad alta voce il giornale. E di quel gruppo facevo parte anch'io. Era stato commesso un assassinio che aveva fatto molto rumore e il signor Wopsle era immerso nel sangue fino agli occhi. Godeva di ogni aggettivo che suscitasse orrore nella descrizione e si identificava con ogni testimonio all'inchiesta. Si lamentava debolmente «Sono perduto!» come la vittima o ruggiva selvaggiamente «Te la farò vedere!» come l'assassino. Ripeteva la deposizione del medico facendone una mordace imitazione del nostro dottore locale. Parlava con voce flautata, tremando tutto come il vecchio guardiano della chiusa. Il giudice inquisitore nelle mani del signor Wopsle diventò Timone di Atene, l'usciere Coriolano. Proprio allora, e non prima, mi accorsi di un forestiero appoggiato allo schienale della panca di fronte a me, che ci stava osservando. Aveva sul viso un'espressione sprezzante e mordicchiava il lato di un grosso indice, senza distogliere lo sguardo dal nostro gruppo. «Bravo!» disse lo straniero al signor Wopsle, non appena la lettura ebbe termine. «Avete sistemato tutto con vostra piena soddisfazione, immagino». Tutti trasalirono ed alzarono gli occhi come se egli fosse l'uccisore in persona. Ma lo straniero ci rivolse uno sguardo freddo e sarcastico. «Secondo informazioni da me avute», disse guardandoci ad uno mentre ci facevamo piccoli davanti a lui, «ho ragione di credere che ci sia fra voi un fabbro di nome Joseph, o Joe Gagery. Chi è?» «Eccomi qua», disse Joe. Gentilmente gli fece cenno di avvicinarsi, e Joe si avanzò. «Voi avete un apprendista», continuò il forestiero, «conosciuto sotto il nome di Pip». «È qui?» «Eccomi!» gridai. Lo straniero non mi riconobbe, ma io ravvisai in lui il signore che avevo incontrato per le scale il giorno della mia seconda visita alla signorina Havisham. Lo avevo riconosciuto non appena lo avevo visto guardare al di sopra della panca, ed ora che gli stavo di fronte, con la sua mano sulla mia spalla, potei controllare di nuovo ogni particolare, la testa grossa, la carnagione scura, gli occhi infossati, le scure e folte sopracciglia, la grossa catena dell'orologio, le macchie nerissime della barba e dei favoriti, persino l'odore di sapone profumato sulle sue grosse mani. «Desidero avere un colloquio privato con voi due», egli disse dopo avermi esaminato per un bel po'. «Non richiederà molto tempo. Forse sarebbe meglio che andassimo nel luogo dove abitate. Preferisco non farvi qui la mia comunicazione. In seguito ne comunicherete quel tanto o quel poco che vorrete ai vostri amici. Non è cosa che vi riguardi». In mezzo a un silenzio attonito, noi tre uscimmo dai tre allegri barcaioli e in un silenzio attonito rientrammo a casa. Strada facendo, il forestiero ogni tanto mi guardava ed ogni tanto si mordicchiava il lato dell'indice. Quando fummo vicini a casa, Joe, comprendendo vagamente che l'occasione richiedeva una certa solennità cerimoniosa, ci precedette per aprire la porta d'ingresso. Il colloquio avvenne nel salotto, fiocamente illuminato da una sola candela. Lo straniero cominciò col sedersi al tavolino, si avvicinò alla candela, consultò alcune note in un taccuino, poi rimise il taccuino in tasca e allontanò un poco la candela, dopo aver scrutato nella penombra per accertarsi dove fossi io e dove fosse Joe. «Mi chiamo Jaggers e sono un legale di Londra abbastanza noto. Ho un affare insolito da trattare con voi. E vi spiego subito che non è cosa che dipenda da me. Se fosse stato richiesto il mio consiglio, non sarei qui. Esso non fu richiesto e mi vedete qui. Ciò che devo fare nella mia qualità di rappresentante di fiducia di un'altra persona, lo faccio. Niente di più, niente di meno. Accorgendosi che non ci poteva vedere molto bene dal punto in cui era seduto, si alzò, gettò una gamba sullo schienale di una seggiola e vi si appoggiò, rimanendo così con un piede appoggiato alla seggiola e l'altro per terra. Ora, Joseph Gargery, io sono l'autore di un'offerta per togliervi il peso di questo giovanotto vostro apprendista. Non avreste nulla da obiettare a rescindere il suo contratto dietro sua richiesta e per il suo bene? Non pretendereste niente per farlo? Che Dio non voglia che io prenda qualcosa per non ostacolare la carriera di Pip, affermò Joe guardandolo bene in faccia. L'intervento di Dio è una bella cosa, ma qui non c'entra, ribatté Jaggers. La questione è, prendereste qualcosa? Volete qualcosa? La risposta è no, replicò brusco Joe. Mi parve che il signor Jaggers guardasse Joe come se lo giudicasse sciocco per il suo disinteresse, ma ero troppo sconcertato tra la sorpresa e la curiosità per esserne sicuro. Ora torniamo a questo giovanotto. La comunicazione che devo fargli è che ha delle grandi speranze. Joe ed io ci guardammo senza fiato. Sono stato incaricato di comunicargli, continuò il signor Jaggers puntando un dito lateralmente verso di me, che egli entrerà in possesso di una bella sostanza. Inoltre, che per desiderio dell'attuale possessore di questa sostanza, egli dovrà essere immediatamente allontanato dalla sua sfera attuale di esistenza e da questo posto, ed educato come un gentiluomo. In una parola, come un giovane di grandi speranze. Il mio sogno si stava realizzando. La mia pazza immaginazione era superata da una sobria realtà. La signorina Havisham avrebbe fatto la mia fortuna in grande stile. Ora, signor Pip, proseguì il legale, io mi rivolgo a voi per dire quanto mi resta ancora da comunicarvi. Sappiate innanzitutto che la persona da cui ho ricevuto questo incarico chiede che voi portiate sempre il nome di Pip. Immagino che non avrete nulla da obiettare a che le vostre grandi aspettative siano legate a questa facile condizione. Ma se avete qualcosa da obiettare, questo è il momento di farlo. Il cuore mi batteva così rapido e le orecchie mi ronzavano tanto che a stento potevo balbettare che non facevo nessuna obiezione. Lo credo bene. Ed ora sappiate, in secondo luogo, signor Pip, che il nome della persona che è il vostro generoso benefattore rimarrà un profondo segreto fino a che la persona stessa non voglia rivelarlo. Sono autorizzato a menzionare che è intenzione di quella persona di svelarlo direttamente a voce a voi stesso. Quando o dove questa intenzione si realizzerà, non posso dire. Nessuno lo può dire. Potrebbe essere fra anni. La condizione è posta. La vostra accettazione di essa e l'impegno di non infrangerla è l'ultima condizione che la persona di cui eseguo gli ordini e della quale non sono altrimenti responsabile mi ha incaricato di sottoporvi. È la persona da cui dipendono le vostre grandi speranze e il segreto è noto soltanto a quella persona e a me. Anche questa non è una condizione molto onerosa rispetto a un così grande miglioramento della vostra sorte. Ma se avete qualcosa da obiettare, questo è il momento di farlo. Parlate liberamente. Una volta ancora balbettai a stento di non aver nulla da obiettare. Lo credo bene. Ed ora, signor Pip, ho finito con le condizioni. Sebbene mi chiamasse signor Pip e incominciasse a trattarmi più gentilmente, pure non poteva liberarsi da una cert'aria di superiorità sospettosa. E anche ora, di tanto in tanto, socchiudeva gli occhi e puntava il dito contro di me nel parlare, come per farmi capire che sapeva ogni sorta di cose spiacevoli sul mio conto, se solo avesse voluto esporle. Ora veniamo ai minuti particolari dell'accordo. Dovete sapere che sebbene io mi sia servito della parola speranze più di una volta, a voi non spettano soltanto delle speranze. Vi è già depositata nelle mie mani una somma di denaro ampiamente sufficiente per la vostra educazione e per il vostro mantenimento. Vorrete considerarmi il vostro tutore? Poiché io stavo per ringraziarlo, vi dirò subito che sono pagato per quanto faccio, altrimenti non lo farei. Si ritiene che voi dovrete avere un'istruzione migliore, adeguata alla vostra nuova situazione, e che vi renderete conto dell'importanza e della necessità di approfittare subito di questo vantaggio. E dissi che lo avevo sempre desiderato. Non importa che cosa abbiate sempre desiderato, signor Pip. E gli ribatté: attenetevi al fatto. Se lo desiderate ora, è sufficiente. Devo ritenere che siete disposto a mettervi subito nelle mani di un capace insegnante? È così? Balbettai di sì. Vi è un insegnante che conosco un poco e che credo potrebbe essere adatto per il nostro scopo, disse il signor Jaggers. Non lo raccomando, badate, perché non raccomando mai nessuno. Il signore di cui parlo è un certo Matthew Pocket. Ah, afferrai subito il nome. Il parente della signorina Havisham. Quel Matthew di cui Camilla e marito avevano parlato. Quel Matthew il cui posto sarebbe stato al capezzale della signorina Havisham quando, dopo morta, l'avrebbero adagiata nella sua veste di sposa sul tavolo del festino nuziale. «Conoscete questo nome?» disse il signor Jaggers guardandomi con aria perspicace e poi socchiudendo gli occhi in attesa della mia risposta. E la mia risposta fu che avevo sentito quel nome. «Oh, disse, avete sentito quel nome! Ma il punto è che ne pensate!» Dissi e cercai di dire che gli ero molto grato per la sua raccomandazione. «No, no, mio giovane amico», egli mi interruppe scrollando il testone molto lentamente. «Cercate di ricordarvi». Non riuscendo a ricordare nulla, ricominciai a dire che gli ero molto grato per la sua raccomandazione. «No, mio giovane amico», mi interruppe una seconda volta scrollando il capo, aggrottando le sopracciglia e sorridendo nello stesso tempo. «No, no, no, siete molto gentile, ma non va. Siete troppo giovane per potermi cogliere di sorpresa. Raccomandazione non è la parola, signor Pip. Trovatene un'altra». E correggendomi dissi che gli ero molto grato di aver fatto il nome del signor Matthew Pocket. «Così va meglio», esclamò il signor Jaggers, e aggiunsi che avrei provato volentieri quel signore. «Bene, sarebbe meglio provarlo in casa sua. Sistemerò la faccenda, e intanto conoscerete suo figlio che vive a Londra. Quando verrete a Londra?» Dissi, guardando Joe che mi fissava immobile, che supponevo di poterci andare immediatamente. «Anzitutto», disse il signor Jaggers, «dovrete avere dei vestiti nuovi per venirci, e non dovranno essere abiti da lavoro. Diciamo, fra 8 giorni. Avrete bisogno di un po' di denaro. Vi lascio 20 guinee?» Cavò di tasca una lunga borsa con la massima calma, contò le monete sul tavolo e le spinse verso di me. Fu questa la prima volta che tolse la gamba dalla seggiola. Sedette poi a cavalcioni sulla seggiola stessa, dopo aver spinto in là il denaro, e rimase seduto, dondolando la borsa e adocchiando Joe. «Beh, Joseph Gargery, siete ammutolito?» «Lo sono!» esclamò Joe in tono molto deciso. «Era inteso che non volevate niente per voi, ricordate?» «Era inteso», disse Joe. «Resta inteso e lo resterà sempre». «Ma se...» disse il signor Jaggers, dondolando la borsa. «Se io avessi avuto istruzione di farvi un regalo a titolo di compenso?» «Compenso per cosa?» si informò Joe. «Per la perdita dei suoi servizi». Joe pose la sua mano sulla mia spalla con il tocco di una donna. Da allora ho pensato spesso a lui come ad un maglio a vapore che può schiantare un uomo o accarezzare un guscio d'uovo in una fusione di forza e delicatezza. «Pip è di gran cuore autorizzato ad andarsene, libero da ogni impegno, incontro all'onore e alla fortuna. E non ci sono parole per esprimere il mio augurio. Ma se pensate che i soldi possano compensarmi per la perdita di quel bambino, e non parlo della ficina, era per me il migliore degli amici...» ciò che io ero pronto a lasciare con tanta ingratitudine. Ti vedo ancora con il tuo braccio muscoloso di fabbro e l'ampio petto ansimante e la voce che veniva meno. Oh, caro, buono, fedele e tenero Joe, risento l'amoroso tremito della tua mano sul mio braccio oggi ancora con la stessa riverenza che se fossi stato sfiorato dall'ala di un angelo. Ma in quel momento lo rincuorai. Perduto nel labirinto della mia sorte futura, non potevo riandare le vie che avevamo percorse insieme. Pregai Joe di consolarsi perché, come egli aveva detto, eravamo sempre stati i migliori amici e, come dicevo io, lo saremmo sempre stati. Joe si fregò gli occhi con il polso libero, con l'energia di chi voglia cavarseli dalle orbite, ma non disse altro. Il signor Jaggers era stato a guardare la scena con l'aria di chi ravvisasse in Joe lo scemo del villaggio e in me il suo custode. Alla fine disse, soppesando la borsa che non aveva cessato di dondolare: «Ora, Joseph Gargery, vi avverto che questa è l'ultima possibilità che vi si offre. Non sono uomo da mezze misure. Se intendete accettare il regalo che sono stato incaricato di farvi, parlate chiaramente e lo avrete. Se al contrario voi vi intendete...» A questo punto, con grande sua stupefazione, fu interrotto da Joe stesso, che improvvisamente gli si fece sotto dando segno di voler impegnare con lui un furioso pugilato. «Quello che intendo io», gridò Joe, «è che se voi venite in casa mia per aizzarmi e provocarmi, fuori di qui! Quello che intendo io è che, se siete un uomo, fatevi avanti! Quello che intendo io è che la mia parola è la mia parola e intendo mantenerla!» Allontanai Joe e subito egli ridiventò mansueto e si limitò a dichiararmi con cortesia, come un educato avvertimento rivolto a chiunque volesse prenderne nota, che egli non permetteva a nessuno di venirlo ad aizzare e provocare in casa sua. Il signor Jaggers si era alzato in piedi dinanzi alla dimostrazione di forza di Joe, indietreggiando verso la porta, senza mostrarsi per nulla propenso a rientrare nella stanza. Lanciò di là le sue parole di commiato e furono queste: «Ebbene, signor Pip, credo che quanto prima ve ne andrete di qui. Dato che dovete diventare un signore, tanto meglio sarà.» Il sole aveva brillato cocente tutto il giorno sul tetto della mia soffitta e la stanza era calda. Mentre spalancavo la finestra per guardare fuori, vidi Joe uscire lentamente dalla porta buia lì sotto, fare due passi all'aperto. Poi vidi arrivare con la pipa e accendergliela. Egli non fumava mai a un'ora così tarda. La cosa mi parve il segno di un suo bisogno di conforto, per una ragione o per l'altra. Poi egli venne a fermarsi dinanzi alla porta, proprio sotto di me, fumando la pipa. E c'era anche Biddy che gli parlava sottovoce. E capii che parlavano di me, perché sentii più di una volta pronunciare il mio nome in tono affettuoso. Non avrei voluto sentire di più, anche se lo avessi potuto. Perciò mi allontanai dalla finestra, mi sedetti sull'unica seggiola vicino al letto e mi parve molto triste e strano che la prima sera delle mie grandiose fortune fosse la più solitaria che io avessi mai conosciuto. Guardando verso la finestra aperta scorgevo le lievi volute della pipa di Joe fluttuare là fuori. Mi piacque interpretarle come una benedizione di Joe, non imposta né ostentata, che pervadesse l'aria respirata da entrambi. Spensi la luce, mi infilai nel letto, ma ormai era un letto scomodo e non vi dormii mai più il sonno profondo di un tempo.